408. Tartufi alla bolognese, crudi, eccetera. La gran questione dei bianchi e dei neri, che fece seguito a quella dei guelfi e dei ghibellini, e che desolò per tanto tempo l'Italia, minaccia di riaccendersi a proposito dei tartufi. Ma consolatevi, lettori miei, che questa volta non ci sarà spargimento di sangue. I partigiani dei bianchi e dei neri di cui ora si tratta sono di natura molto più benevola di quei feroci d'allora. Io mi schiero dalla parte dei bianchi e dico e sostengo che il tartufo nero è il peggiore di tutti. Gli altri non sono del mio avviso e sentenziano che il nero è più odoroso e il bianco è di sapore più delicato, ma non riflettono che i neri perdono presto l'odore. I bianchi di Piemonte sono da tutti riconosciuti pregevoli e i bianchi di Romagna, che nascono in terreno sabbioso, benché sappiano d'aglio, hanno molto profumo. Comunque sia, lasciamo in sospeso la gran questione per dirvi come si preferisce di cucinarli a Bologna. Bologna la grassa per chi vi sta, ma non per chi vi passa. Dopo averli bagnati e nettati, come si usa generalmente, con uno spazzolino tuffato nell'acqua fresca, li tagliano a fette sottilissime e, alternandoli con altrettante fette sottilissime di parmigiano, li dispongono a suoli in un vassoio di rame stagnato, cominciando dai tartufi. Li condiscono con sale, pepe e molto olio del migliore e appena hanno alzato il bollore spremono sui medesimi il limone, togliendoli subito dal fuoco. Alcuni aggiungono qualche pezzetto di burro, semmai mettetene ben poco per non renderli troppo gravi. Si usa pure mangiare i tartufi crudi, tagliati a fette sottilissime e conditi con sale, pepe e agro di limone. Legano bene anche con le uova, queste frullatele e conditele con sale e pepe. Mettete al fuoco burro in proporzione e quando sarà strutto versateci le uova e dopo poco i tartufi a fette sottili, mescolando. A tutti è nota la natura calida di questo cibo, quindi mi astengo dal parlarne, perché potrei dirne delle graziose. Pare che i tartufi venissero per la prima volta conosciuti in Francia nel Périgord, sotto Carlo V. Io li ho conservati a lungo nel seguente modo, ma non sempre mi è riuscito. Tagliati a fette sottili, asciugati al fuoco, conditi con sale e pepe, coperti d'olio e messi al fuoco per far loro alzare il bollore. Da crudi si usa tenerli fra il riso per comunicare a questo il loro profumo.